Good morning everyone, vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta. Verso la medaglia d'oro, Elia Viviani scuote la testa, è il momento, sì, è il tuo momento, grande Elia, grandissimo Elia Viviani, medaglia d'oro nel ciclismo su pista, nell'Omnium per l'Italia con Elia Viviani. È quasi incredibile, credo che non ho ancora capito cosa sta succedendo, però... ho vinto la corsa più importante della mia vita, quindi penso di essermelo meritato perché ho inseguito tanto, ho perso dei mondiali, ho perso l'Olimpiade di Londra ed è 4 anni che ci penso e oggi quando sono salito su quella pista era solo per questa medaglia. Ed ecco dunque la numero 23 ottava d'oro, questa Olimpiade ci sta insomma regalando una spremuta di metallo pregiato, di metallo prezioso qui, diciamo la verità. Forse all'inizio non credeva a nessuno. Questo invece martedì è, lo dico tutte le volte ma fa niente, è uno dei miei momenti preferiti nella settimana di tutti i convocati. Abbiamo poi tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20, non ve lo dimenticate, perché ci sono le pagelle di Marino Bartoletti. Ciao Marino. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, perché immagino che verrai una notte quasi insonne anche tu, insomma ne abbiamo fatte di sì. Notti bianche, ultimamente qualcuna valeva anche la pena, sinceramente. Bisognerà trovare il tempo di recuperare sonno, ma ci penseremo dal 21 in poi, Marino. Intanto... Cioè, ci addormenteremo col campionato. Ci addormenteremo, sì, guarda, in linea di massima un paio di giornate, non muore nessuno, mi pare. Allora, io comincerei da qui e da quelle previsioni di Malagò, quelle 25 medaglie poi abbassate a 20 che avevano fatto sorridere molti. Cosa ha detto il presidente del CONI? Ai gufi che dicevano che non ne portavamo 20, a Sport Illustrated che dice? Io penso che onestamente bisogna venire alle Olimpiadi, soprattutto le ultime Olimpiadi, le edizioni recenti, a rendersi conto che cosa significa vincere una medaglia rispetto a quello che si dice sulla carta. Io penso che bisogna conoscere bene lo sport e, prima di fare certe affermazioni, ma comunque va benissimo così. Allora Marino, vota Malagò che aveva pronosticato quelle 25, adesso si prende le sue rivincite, ma meglio, voto alla spedizione italiana fin qui, mi sembra piuttosto alto. Allora, intanto voto alla domanda che gli è stata mal posto, questa cosa dei gufi sinceramente sta diventando un pochino stucchevole, dai, facciamo i bravi quando intervistiamo Malagò e tutti gli altri personaggi olimpici. Malagò cerca di capire come va a finire, adesso si sta ringalluzzendo, giustamente ringalluzzendo, perché l'Italia è quinta nel medagliere, viene da 2 ottavi posti, ammesso che poi sto medagliere conti qualcosa, perché in realtà, come dici sempre tu, le medaglie vanno contate o vanno pesate. Quella di ieri sera la possiamo contare, la possiamo pesare. Sì. Oggi è il compleanno di un grande dell'Italia, che è Mogol, che ha scritto "Tu chiamale se vuoi emozioni". Io ieri sera mi sono veramente emozionato a vedere quel ragazzo che doveva prendere tante rivincite e se le prese tutte in una notte. E ti aggiungo di più, la cosa che più mi ha fatto emozionare è il fatto che abbia commentato la sua vittoria Silvio Martinelli. Sì, io c'ero sì, ad Atlanta sì, esattamente 20 anni fa, l'ultima volta che un uomo, sarebbe successo alla Bellutti 4 anni dopo, ma l'ultima volta che un atleta maschio vinceva in quello che era stato il nostro pascolo, e cioè il ciclismo su pista. Quella vittoria la commentò col magone Adriano De Zan. Ieri sera mi è parso di cogliere un po' di commozione anche nelle parole del bravissimo Silvio Martinello. Io, come sai e come qualcuno sa, da una settimana sono social. Ho fatto una piccola composizione nella quale metto assieme Viviani e Martinello i voti. Malagò 6, perché comunque le somme si tirano alla fine, sì, perché non puoi sempre dire "voi l'avevate detto, noi l'avevamo pensato", insomma di una cosa se la vuoi dire, però mi sembra che la spedizione olimpica, quella sì, in questo momento superi abbondantissimamente il 7 le previsioni. 10 a Viviani, perché è anche una metafora straordinaria, cioè quella della permeabilità del ciclismo contemporaneo, e questo lo dimostra il secondo posto sul podio sotto di lui di Cavendish, che è uno certo, che che conosciamo bene. La France, no? Ha vinto meno tappe soltanto rispetto a Merckx, e che fa capire come quello che si apprende sulla pista lo si può portare sulla strada, e quello che si può portare sulla strada lo si può anche in qualche modo valorizzare sulla pista. Viviani è sicuramente il ciclista, come dire, più contemporaneo che ci sia in questo momento nel ciclismo italiano. Si è caricato il ciclismo italiano 2.0 sulle spalle, le sue spalle mi sembrano molto ma molto forti. Ho esagerato, ho parlato troppo. No, mi è piaciuto un sacco questo concetto della permeabilità, perché molti si sono chiesti, ma Cavendish è lo stesso Cavendish che vinceva le tappe al Tour de France? Sì, e forse è un concetto nuovo questo, no Marino? Direi di sì, direi che i grandi del ciclismo contemporaneo, quelli che vengono dall'Inghilterra e dall'Australia, hanno portato sulla strada la loro grande esperienza in pista. Sai benissimo di farlo, c'era Wiggins ancora l'altro giorno, e l'hanno restituita alla strada. Quindi ci sono ciclisti di adesso che vengono e vincono su strada venendo dalla mountain bike, vengono dalla pista. Noi sembrava che ci fossero dei corpi separati. Bravo, esatto. Guarda, non voglio fare né il vecchio né il nostalgico, però insomma, Olimpiadi di Roma mai troppo ricordate. 4 gare su pista, 4 vittorie italiane, perché allora comunque c'era una scuola italiana, perché allora c'era un grande maestro italiano, Guido Costa, ma soprattutto perché c'erano i velodromi italiani. Sì. In questo momento diciamo che sul piano delle infrastrutture siamo leggermente sottodimensionati rispetto ad altri. Vorrei, in questo sì, che le Olimpiadi diventassero qualcosa di importante, che questa vittoria di Viviani così bella, così commovente, frutto di sacrificio, di umiltà, di bravura, eccetera, eccetera, fosse un volano per il movimento ciclistico italiano. Marino, c'è una cosa che mi fa un po' arrabbiare in questi giorni. Tu dicevi, e io dico, le medaglie vanno contate pesate, poi il medagliere è lì da leggere, va negli almanacchi, va negli archivi. Però mi pare di cogliere in molti italiani una sorta di irriconoscenza nei confronti di Federica Pellegrini, perché alla fine la sua è una medaglia di legno, ma io la conto e la peso, perché sono 4 finali olimpiche consecutive, perché comunque ha delle avversarie, il parco delle avversarie è fortissimo, perché comunque secondo me la longevità di un atleta forse vale di più di una medaglia. E Phelps insegna qualcosa, direi. Guarda, io ho espresso il mio modestissimo giudizio sul mio profilo l'altro giorno. Ho detto che coglievo commenti molto acidi, molto ingrati nei suoi confronti dopo quella che non possiamo ritenere una sconfitta. Al massimo la Pellegrini poteva ambire la medaglia di bronzo, non c'è riuscita perché ha trovato 3 atleti più forti di lei, cosa che succede nello sport e anche nella vita. Possiamo dire che forse ha sbagliato qualche atteggiamento per apparente arroganza. Possiamo dire che ha sbagliato qualche atteggiamento per apparente indolenza, però non possiamo parlare né con la pancia né per invidia, ma con cognizione di causa. La cognizione di causa che ci fa anche vedere che ha combattuto fino all'ultima gara, si è sacrificato per una 4% mista nella quale sicuramente non aveva nulla da guadagnare, forse qualcosa da perdere. Possiamo dire tutto quello che ci pare, ma una cosa vola al di là della soggettività, e cioè il fatto che Federica Pellegrini è stata ed è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, forse una delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi. La gente fa fatica ad accettarlo perché è prigioniera di uno status mediatico che a molti dà fastidio. Questo è prigioniera di pregiudizi, e ripeto una parola, certo, che ho detto prima fra le tante, forse anche di un po' di invidia. Sì, sono d'accordo con te Marino. Vorrei parlare invece di un'altra cosa che non riguarda le Olimpiadi, ma mi è piaciuto molto insomma quello che ho visto ieri sera sul prato di Stamford Bridge, ma anche attorno al prato di Stamford Bridge, e cioè il debutto di Antonio Conte e come è stato accolto Antonio Conte dai tifosi del Chelsea. Sentiamo una battuta dell'allenatore italiano. I think that this league is very very difficult, the most difficult in the world, because there are 6-7 teams can win the title. E poi ha detto anche in italiano, ha ammesso con un sorriso che raramente gli ho visto, molto credibile se mi consenti, ha detto sì, e sento anche molta pressione. È stato accolto da quella curva di Stamford Bridge che agitava bandierine bianche, rosse e verdi. E non male come accoglienza per Antonio Conte. Ci sarà la Brexit, ma in Inghilterra entriamo noi, devo dire. Allora, sì, a parte che le Olimpiadi c'entrano perché ha vinto il salto in alto, il salto in lungo, il salto oltre la balaustra, ha fatto tutte le cose che agonisticamente non vengono abitualmente richieste a un allenatore, ma ha portato sicuramente una grinta molto italiana, mi verrebbe da dire molto salentina, in questa squadra che ne ha viste tante, di belle e di brutte. È bello questo amore che anche lui a modo suo sta seminando a favore dell'Italia. Certamente Ranieri, che non è partito col piede giusto, ma questa è una parentesi che speriamo sia soltanto occasionale, ha seminato un altro tipo di amore, di considerazione nei confronti dell'Italia. Conte è Conte anche lì. Conte è un grande allenatore, ragazzi. Se l'ha preso il Chelsea, un motivo ci sarà. Conte ha fatto cose straordinarie nella Juventus e anche prima. Ha fatto cose importanti nella nazionale. Diciamo che non sempre mi hanno convinto i suoi addii, i suoi saluti, i suoi distinguo. Però, insomma, non possiamo certamente discuterlo come professionista. In una giornata ha scatenato l'entusiasmo attorno a una squadra che veniva da un'annata un po' complicata, pur essendo viziata dalla sua meravigliosa storia. E quindi dobbiamo tifare per lui, perché tifando per lui, come per gli altri allenatori italiani dispersi in Europa, beh, insomma, tifiamo per il calcio di questo paese. Prima ho usato la parola volano per Viviani, è un bel volano anche. Speriamo che non si spetti. Speriamo che non si spetti. Un'ultima cosa, Marino, e riguarda invece quanto abbiamo visto non alle Olimpiadi, noi sui prati di calcio, ma sulla pista di Zeltweg domenica. Qualcosa che, insomma, io ancora sto riflettendo, sto pensando, mi sto convincendo che possa essere, come piacerebbe dire a te, non un'avventura ma una storia vera. Quella della Ducati è questa doppietta di Iannone e Dovizioso. Sicuramente me la godo, mi godo sempre ogni momento della vita, anche quelli brutti, perché mi fanno sorridere e mi insegnano sempre qualcosa. Quindi credo che noi abbiamo fatto un lavoro tutti quanti di squadra, e peccato che l'anno prossimo ci separiamo con la Ducati, perché eravamo arrivati veramente a un livello molto, molto importante. Beh, questa volta un voto alto a Paperino Iannone, dobbiamo darlo. A tutti, guardate. Io in questo momento sono in un posto dal quale, se volessi, potrei sentire rombare le Ducati, che sono a 3-4 milioni. Chilometri da qui. Un voto alto a tutti. Fammi dire che fino a un giro dalla fine ho detto: ragazzi, non fate gli scemi, cercate di arrivare tutte e due, perché perché abbiamo qualche precedente. Ma secondo me la persona più felice su quel podio, sai chi era? Era Lorenzo, il quale ha detto: porca miseria, che bella moto ho vinto per il prossimo anno. Per il resto, sai, vedere trionfare una rossa in tutti gli sport che stanno di motore è una cosa molto bella, che ti inorgoglisce. Vengo a riflettere dicendo: Zeltweg è una pista particolare, io la conosco da sempre perché la frequento dai primi anni 70, quando la tribuna stampa era quella che il grande Ezio Pirazzini definiva la capanna di Betlemme, e ti assicuro che non c'erano le comodità di adesso. Ci ho visto correre in tutti i climi, ci ho visto morire anche dei piloti quando la sicurezza era un'utopia. È una pista particolare, non è detto che questo consenta delle repliche così trionfali alla Ducati, che fra l'altro ha piazzato anche le sue seconde e le sue terze linee a punti, quindi è stata una giornata straordinaria. Allora, 9 alla Ducati. Poteva essere di più, ma ho la sensazione che siano state perdute alcune occasioni, forse non per colpa della moto, ma di chi la guidava. 9 a Iannone, potrebbe essere ancora di più, perché sicuramente forse poteva riflettere un po' prima sul suo talento e non sprecarlo, come dire, in qualche birichinata. 8 Dovizioso, che sarà il compagno di squadra ideale di Lorenzo. E anche a Gigi Dall'Igna, che è il papà di questa moto. Gigi Dall'Igna nel 10 non ci sto, sinceramente. Non basta, perché se è vero che Conte sta cambiando geneticamente la storia del Chelsea, almeno questo ce lo auguriamo, Gigi Dall'Igna ha cambiato geneticamente la storia di una moto che rappresenta l'Italia, consentimi di dire, rappresenta l'Emilia Romagna, rappresenta una storia che va molto oltre quella del motore. Grazie Marino, grazie come sempre. È una gioia. Grazie come sempre. Adesso Marino, ti ascolto però, come dicono quelli che ti amano e seguono la tua rubrica. Grazie maestro. Grazie Marino Bartoletti. Allora, adesso, porte aperte agli ascoltatori, a tutti quelli che vorranno intervenire su questi e su altri temi, tutti i temi che volete. Alessio, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Convocazione all'800240024, convocazione anche per iscritto al 349-238-6666, WhatsApp e messaggi. Dica. Allora, io sono un grosso fan di pallacanestro, quindi il mio argomento è riguardante i quarti di domani, dove si affronteranno tantissime squadre, e c'è un Serbia-Croazia che già mi mette i brividi. Infatti io sono andato in vacanza in Croazia neanche una settimana fa, e ho sentito da molti croati questa cosa, che loro non ne possono più di trovarsi ancora con dell'Asti o con i serbi, che sia magari una buona volta, una buona occasione, visto che comunque il basket è uno sport praticato tantissimo in quei paesi lì, che sia una buona occasione per trovare un po' di sana sportività, come c'è stato in Brasile, Argentina, l'ultima partita che giocate all'overtime è stata bellissima. Io spero che sia una roba del genere, perché se la meritano, perché non ne possono più tutte di queste guerre. No, questo certamente, certamente è una partita di basket, sarà una partita di basket, dalle forti emozioni, ed è inutile nascondersi, anche perché possiamo insomma prenderla larga e leggera e dire che è e sarà sempre una sorta di derby per mille motivi, ma non credo ci sarà altro in quella partita, nessuno andrà in campo armato. Non è la prima volta che si affrontano Serbia e Croazia, e anzi mi piace ricordare la prima volta di Serbia e Croazia, perché era un europeo, perché il canestro della vittoria per la Serbia, ma questo è solo un dettaglio, lo segnò un mio grande amico che adesso siede sulla panchina della Serbia, si chiama Aleksandar Djordjevic. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo subito, vedo già il prossimo ospite in linea ed è Sandro Sabatini, ve lo annuncio. 800 24 00 24, numero verde. Tra poco nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. Tutti convocati. Questi non sono gli ultra, sono i giocatori della Roma che si caricano così. Quello che avete sentito, la voce che avete sentito, è quella del preparatore atletico giallorosso, non è quella di un capo ultra. Sandro Sabatini, ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Dai. Bellissimo. Non male come modo di caricarsi, non male come emotività. Assolutamente bello, ma impressionato, mette i brividi. Non credo che sia comune a tanti spogliatoi. Così intenso no, ecco, così intenso è proprio bello, sono contento che sia stato diffuso attraverso i social, perché a volte si dicono tante cose, no, mercenari, le solite robe, calciatori, se ne frega nulla, non si impegnano, non sudano la maglietta, così, guardate che poi non è che poi muoiono per la Roma, come dicono qui nel coro, però che ci tengono, spatiamo quei tanti false leggende, falsi luoghi comuni, ecco, sì. Sui calciatori. Sì, intanto comincia la Champions, che ovviamente sarà su Mediaset Premium, di cui Sandro Sabatini è dominatore indiscusso. Domani intanto conterà più che urlare, più che caricarsi, fare il risultato per la Roma contro il Porto, e secondo me non è facilissimo questo preliminare, al di là del nome, dei titoli che il Porto si trascina dietro, di uno stadio meraviglioso che sarà pieno, al di là del fatto che ha cambiato molto in questa stagione, forse non è più la squadra di qualche anno fa, però come preliminare benissimo non c'è andata. Guarda, per le urla abbiamo mandato Pardo, i giocatori, sì. Quindi possono sentirsi esimersi dalle urla, che tanto c'è Pierluigi là per quello. E io credo che il Porto non sia il Porto degli anni d'oro, non sia nemmeno il Porto probabilmente di due o tre anni fa, è la partita comunque difficile, ecco, per la Roma. Credo che la Roma, tutto sta a capire quale Roma vedremo in campo, se fosse quella di Garcia tremolante della Champions League dell'anno scorso, anche del campionato dell'anno scorso, non ci sarebbero speranze. Quella gagliarda, come si diceva a Roma una volta, gagliarda, di Spalletti, è a buonissime chance di passare il turno, ecco. Sì, resta appesa anche qualche discussione di mercato a questo passaggio del turno, perché la Roma ha preso Bruno Perez, e questo si sa, è tutto fatto, però adesso utilizzerebbe i soldi del passaggio del turno per completare una squadra che magari a centrocampo qualcuno ci starebbe. Sì, ci starebbe, anche se un nuovo acquisto ce l'ha la Roma e si chiama Strootman, questo è certo. Certo, è andato via Pjanic, mi sembra che comunque Spalletti non abbia tanto pianto, ecco, sull'addio di Pjanic. Questo in un certo senso gli fa onore all'allenatore della Roma. Poi è chiaro che tutte le squadre sono migliorabili e perfettibili, è altrettanto chiaro che insomma ci sarebbe a occhio bisogno di per aumentare il tasso di qualità. Però credo che, per esempio, Bruno Perez, prepariamoci a vedere uno che potrebbe anche diventare il nuovo Maicon, ecco, tanto per dire, cioè è un grande acquisto Bruno Perez. I difensori centrali, questo Fazio che poi ha diffuso anche lui questo video, ha la carica e la grinta di tutti gli argentini veri, insomma, non è un male come mercato quello della Roma attuale. Ha avuto la sfortuna di quel Mario Rui che è appena arrivato, ha fatto due corsette, due contratti e si è infortunato. Sì. Quello sai, contro la sfortuna non puoi farci nulla. Se dovesse arrivare qualcosa al centrocampo resterebbe un'unica incognita, cioè Dzeko. E anche qui vale il discorso, è il Dzeko degli anni fortunati, anche se uno pronuncia Dzeko e poi dice fortuna, viene in mente qualche altra cosa. È il Dzeko comunque degli anni migliori, quelli soprattutto del Wolfsburg, del Manchester City, o il Dzeko del primo anno di Roma. A vedere le amichevoli di quest'estate, per il valore che possono avere, sembra un altro rispetto all'anno scorso. Beh, ma io non credo che possa essersi imbrocchito tutto d'un colpo, non credo che per un lustro abbondante ci siamo tutti sbagliati, compresi quelli che l'hanno preso pagando un sacco di soldi. A me sembra un eccellente giocatore che forse gioca nella squadra sbagliata, perché io rimango profondamente convinto del fatto che il rendimento di un centravanti è molto difficile da scindere rispetto al modo in cui la squadra lo valorizza. Ad esempio, fare il centravanti nel Napoli credo sia un eccellente lavoro, al di là dei 36 di Higuain e del fatto che Gabbiadini nei primi test sia partito così, così forte. Non credo sia altrettanto semplice fare il centravanti, soprattutto nella Roma che aveva disegnato Garcia, che non era fatta per un centravanti come Dzeko. Sì, quello è vero, era una Roma che puntava molto sulla velocità delle ali e poi dopo il finalizzatore doveva essere un giocatore con tutt'altre caratteristiche rispetto a Dzeko. Con Spalletti qualche segno di risveglio l'ha dato, poi ha fatto la preparazione di integrato, vediamo, guarda. Sono molto curioso di vedere il test poi sul campo, perché noi facciamo un sacco di discorsi, ma poi come al solito la risposta la dà sul campo, e in alcuni casi c'è il rischio nostro di commettere qualche autogol dialettico, perché obiettivamente esporsi su Dzeko dopo quello di brutto che ha fatto l'anno scorso è dura. Scommettere dopo quanto il bello aveva fatto negli anni precedenti è comunque un po' un atto di fede, Sì, certamente, certamente Sandro, certamente è un atto di fede, perché non puoi credergli fino in fondo fino a quando non lo vedi. Siamo un po' come San Tommaso e non ci sbagliamo da questo punto di vista. Intanto Matri è andato a Sassuolo e secondo me il Sassuolo continua ad aggiungere pezzi comunque importanti nelle sue dimensioni. Continua a non considerare il Sassuolo come una piccola squadra, ma come una ormai un eccellente rappresentante della borghesia del nostro calcio. Non so come la pensi. Anch'io spero che faccia anche strada in Europa League, avrà la stella rossa. Ha avuto per qualche giorno la tentazione Balotelli, penso, il Sassuolo. E poi con grande sano realismo l'ha accantonata questa tentazione Balotelli. Anche perché su Balotelli sto deviando un po' forse sul tema, però l'altro giorno controllavo tutti gli allenatori che l'hanno avuto e tutti gli allenatori che ne sono usciti KO dalla esperienza con Balotelli, e parliamo di Mourinho, di Mancini, tutto sommato di Allegri, anche se il Milan giocò benino, e poi di Klopp, e poi di Mihailovic, e poi di quello del Brandon Rodgers, che praticamente il cui esonero a Liverpool fu causato proprio da Balotelli. Ecco, Di Francesco aveva davanti una sfida che l'avrebbe eletto top coach a livello europeo se avesse veramente recuperato Balotelli. Credo che alla fine ci abbiano ripensato a Sassuolo, anzi sono sicuro che con l'acquisto di Matri ci abbiano ripensato, anche se sarebbe stato giornalisticamente come al solito sfizioso. No, rimane da capire se Balotelli può davvero, si leggeva in un interessamento del Chievo, di qualche pur parlé con altre squadre. La verità è che questo giocatore oggi non lo vuole più nessuno, per quelli che tu hai detto e per altri motivi. Questo giocatore oggi non lo vuole più nessuno, nemmeno gratis, e questo è un peccato sul quale però Balotelli deve fare totalmente il mea culpa, deve recitare ogni giorno, mattina, mezzogiorno e sera, il mea culpa, perché è totalmente colpa sua. Sandro, ti chiedo un'ultima cosa invece, che tornando alla Champions League, questa sera il City in campo, in trasferta con la Steaua a Bucarest, l'approccio di, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, di Guardiola con la Premier League non è stato esattamente semplice. Abbiamo visto un Guardiola un po' meno spavaldo, abbiamo visto, sentito Guardiola dire ma mi devo ancora adeguare a questo campionato, devo conoscerlo bene, devo conoscere bene la mia squadra. Lui è uno che normalmente mostra altre certezze. Qualcuno dice che è perché ha capito che dopo il Barcellona che vinceva tutte le partite, dopo il Bayern Monaco che vinceva tutte le partite, adesso è arrivato in un posto in cui tutte le partite non le vincerà. Carlo, mi hai rubato la risposta, però non so più che aggiungere. Cioè, perché... è questo il motivo, secondo te? Beh, la carriera di Guardiola è che ha allenato il Barcellona, ha allenato bene, dandogli l'impronta, il gioco, bello, lo spettacolo, il Barcellona degli anni d'oro della certo. Barcellona. E in Spagna ha vinto tutto e ha vinto anche in Europa. Ha allenato il Bayern degli anni d'oro, in cui in Germania non c'era assolutamente partita, ha vinto tutto in Germania, non ha vinto in Europa. Adesso allena il Manchester City, che vale lo United, forse un pochettino meno, vale il Chelsea e vale secondo me anche il Liverpool. È chiaro che non può essere più spavaldo come prima. È anche vero che comunque il suo City ha vinto all'ultimo minuto, il Chelsea ieri ha vinto all'ultimo minuto, il Leicester ha perso, cioè la Premier League si preannuncia, il Liverpool ha vinto 4-3 sull'Arsenal, cioè la Premier League di quest'anno, come ammettiamolo, si preannuncia ricca sia di personaggi sia di storie sia di equilibrio. Certo. Tanto che perfino una partita secondo me come Watford-Chelsea, Mazzarri contro Conte, sarà motivo d'orgoglio per noi italiani, ma sarà anche motivo di curiosità per vedere come andrà a finire, perché Conte si troverà di fronte non uno sprovveduto, tra virgolette, allenatore inglese, ma uno che lo conosce molto bene, che lo conosce molto bene e che fa un calcio che non è poi così diverso dal suo. Grazie, esatto. Sandro, buon lavoro. Grazie con a voi. La Champions grazie League. A voi. Ciao Sandro Sabatini. Ciao. Ciao, grazie. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde. Adriano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Carlo. Ciao Adriano, come va? Ciao, molto bene, tu? Tutto a posto, tutto che hai, a posto. Che hai fatto ieri per Ferragosto? Siamo stati al mare, ho chalet, pesce e divertimento. Beati voi. A Pineto, in provincia di Teramo. Ascoltavate a Radio 24 a quest'ora e poi dalle 6 alle 20, per dalle 18 alle 20. Per no, ma ti seguo sempre quando sto in macchina a lavoro, tu lo sai il lavoro che faccio, ci conosciamo personalmente, ma al di là di questo... ti chiamavo per sapere dell'Inter, per sapere sì. io questa decisione un po' ritardata, però la vedo bene, del cambio allenatore, che ne dici? Perché Mancini è bravo e tutto, però secondo me, io sono manciniano, a me Mancini è sempre piaciuto, ci ha fatto vincere e tutto quanto, però non trasmette sicurezza, non trasmette nervosismo, non lo so, questa è la mia impressione, passi pure in taglio. Sai cos'è? Che non, la sicurezza non ce l'aveva più nemmeno lui. Allora, il cambio di Mancini è stato ritardato, forse colpevolmente, non in maniera definitiva, perché sarebbe stato molto peggio iniziare la stagione con Mancini, ma non perché Mancini, perché è un allenatore che è stato esautorato a maggio, direi, alla fine della scorsa stagione. È stato privato dei gradi, è stato privato della credibilità nei confronti della squadra, e non c'è niente di peggio, secondo me, in una squadra professionistica o anche squadre dilettantistiche, in questo tipo di rapporti di lavoro non c'è niente di peggio che lasciare sul ponte di comando un allenatore nel quale la società non crede più. C'è stato cambio di proprietà, è vero, Suning non è ancora entrata in pianta stabile nell'Inter, c'è Tohir che in questo momento non è più ovviamente l'azionista di riferimento, ma sta svolgendo molto di più rispetto a prima le mansioni di presidente, tanto che forse non l'avremmo visto un anno fa cambiare Mancini e prendere una decisione di questo tipo, decisione che è stata presa da Eric Tohir, ex presidente dell'Inter, mentre il richiamo di Mancini, il ritorno di Mancini era stato deciso da un altro ex presidente dell'Inter che si chiamava Massimo Moratti. La situazione è abbastanza paradossale e kafkiana, però credo sia questo. Tornando a Mancini, De Boer dobbiamo conoscerlo a queste latitudini, è un ex giocatore di grande intelligenza, ha guidato bene l'Ajax, ma sappiamo come il campionato olandese sia profondamente diverso, è un allenatore innovativo, penso possa fare bene, dovrà abituarsi, però ripeto, molto meglio cominciare con queste incognite che non con un allenatore nel quale i giocatori per primi non credono più. 800 24 00 24, numero verde, adesso Borsa e poi torniamo. Qui si fa fatica, ragazzi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. E torniamo subito, nemmeno il tempo di farci desiderare un po'. 800 24 00 24, il numero verde, vi aspetto per i vostri commenti, per le vostre opinioni, impressioni, pensieri, parole sulle opere o missioni. Discutiamo, però le parole sono bene accette. Saluto e ringrazio invece il presidente della Cremonese, che si chiama, e lo conoscete tutti, Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo. Buongiorno a tutti. Dunque sei passato dietro la scrivania, dopo anni spesi tra campo, porte e preparazione dei portieri. Beh sì, è un ruolo totalmente diverso, forse un pochettino complicato, però affascinante. Ti stai divertendo, insomma? Abbastanza, sì, ma quando si parla di calcio, poi sai, per uno che ha sempre fatto calcio, stare sempre nel calcio credo che sia fondamentale, divertente, affascinante, certo. Non saprei fare altro, sinceramente. Ascolta, Conte lo conosci benissimo. Un pochino. Cioè, hai giocato insieme un paio di mesi, no? Due o tre? Sì, circa 10 anni, per cui penso 20 mesi. una decina d'anni. Lippi lo conosci pure meglio, hai lavorato con lui. Pure Lippi. A me il parallelo, sono diversissimi, però il parallelo Lippi-Conte io non lo trovo così bizzarro, ma per il carisma, per anche se vuoi il modo di intendere il calcio, di intendere comunque da vincenti questo tipo di professione. Mi sbaglio? Mi faccio delle suggestioni? No, assolutamente. Credo che siano, il filo conduttore è sempre lo stesso, che è quello di voler vincere, con l'attaccamento, con questa grandissima voglia di fare calcio e ottenere risultati. Il filo conduttore credo che sia quello, magari da raggiungere in maniera diversa, forse più soft, più tranquillo quello di Lippi, un pochettino più aggressivo quello di Antonio, soprattutto in campo. Il mister Lippi capiva dopo un minuto come l'andazzo della partita, e senza gesti appariscenti, sì, cambiava la partita in corso nel giro di un secondo. Lì forse è stato il più bravo di tutti in quello, forse è stato il più bravo di tutti. Nella gestione del gruppo, dei grandi campioni, nella gestione totale della squadra, credo che forse sia impareggiabile nel mondo Marcello Lippi. Conte invece ha un approccio diverso, molto più bollente, molto più sanguigno, che però ha già conquistato però è abbastanza anche accattivante e anche trascinante per i giocatori, per cui insomma due modi diversi ma sempre con la stessa finalità. Sì, italiani di gran moda in Inghilterra. Tu hai lavorato anche con Claudio Ranieri alla Juventus, giusto? Io ero in quel caso lì, non ho lavorato direttamente con lui, ma ero lì in società, ero responsabile del settore giovanile, per cui ha stretto contatto anche con la prima squadra, per cui l'ho conosciuto e so come lavora anche lui. Forse più sulla scia di Mister Lippi come carattere, come interpreta il ruolo dell'allenatore. Però anche in questo caso ha dimostrato molto molto valido. Però nel paradiso degli allenatori, Conte, Ranieri, Guidolin, Mazzari, poi ci sono anche Zenghe, Di Matteo in Premiership. Insomma, non è male per la scuola italiana. Mi sembra che la scuola italiana sia in questo momento sia una delle scuole di allenatori più di moda del mondo. Credo di sì, noi andiamo all'estero e in Italia prendiamo gli stranieri, questo è il controsenso. però va bene, perché il discorso dell'Inghilterra credo che abbiano capito che anche al grande agonismo che ci mette in campo quelle inglesi, per cui sono molto belle da vedere le partite di campionato del Premier. Hanno bisogno anche di una tattica e credo che i senatori italiani siano i migliori del mondo. Sì. Un'ultima cosa, sei stato invece a lavorare in Cina con Marcello Lippi, giusto? Sì. Come ti sei trovato? Ma molto bene, perché i ragazzi calciatori cinesi hanno una gran voglia di imparare, soprattutto a cospetto di un mister Lippi, sono messi a completa disposizione, con una grandissima voglia di imparare. Certamente abbiamo fatto delle belle cose, per cui insomma, arrivare al mondiale per il club, sì, a giocarsi in una semifinale col Bayern di Monaco, anche per loro è stata un'esperienza unica. Sì, ma che effetto ti fa, adesso che sei presidente di un club comunque storico, che deve risalire come la Cremonese, che effetto ti fanno, sì, le proprietà cinesi di due club come Inter e Milan? Vista con agli occhi della tua esperienza, con le lenti della tua esperienza. Sì. Sì, mi fa un po'. Mi capisco, perché in 3 anni in stato ho capito che hanno una grandissima voglia di mettersi in mostra, di farsi. Per loro è importante apparire, avere le cose migliori, cercare di apparire in qualsiasi campo. Loro è soprattutto una cosa che hanno nella testa i cinesi, che vogliono privilegiare in qualsiasi campo. Per cui si hanno scelto Milan e Inter del campionato italiano perché vogliono primeggiare, per cui non si tireranno indietro nello spendere per le cose importanti. Vogliono sempre essere in tutto. Vogliono, hanno un po' la mania russa dell'apparire sì, oltre, esatto, oltre che dell'essere. Sì, questo l'abbiamo capito. Esatto, sono molto ambiziosi, hanno molti quattrini e vogliono fare certo, dei denari, perché esatto, non sono qui a fare della beneficenza, io credo. No, assolutamente. Ma loro gli piace mostrarsi, gli piace essere sempre in vista, in primo piano, questo sicuramente. Grazie Michelangelo. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Buon lavoro anche a voi, buona giornata. Ciao. Grazie a Michelangelo Rampulla. Dunque, continuiamo con gli ascoltatori 800 24 00 24. Se chi mi scrive, se parlate di Milan, Desciglio richiesti da Juve e Napoli, io li porto con la mia Fiat Tipo, cedelo subito, giocatore sopravvalutato, molle senza grinta. Lo scrive Paolo, io non sono d'accordo, invece per me Desciglio è un giocatore che ha avuto grandi problemi e grandi difficoltà, anche emotive, anche caratteriali, nel corso dell'ultime difficilissime stagioni, delle ultime difficilissime due stagioni in nazionale. Con un gruppo diverso e con un allenatore come Conte, abbiamo visto che può essere uno dei pochi giocatori in grado di avere un valore nella attuale rosa del Milan. Lucio da Verona, buongiorno. Salve. Dica. Niente, una breve, intanto grazie della convocazione. Grazie, una breve considerazione sulla qualità degli allenatori in grado di gestire il collettivo della squadra. D'accordo su Marcello Lippi, che però ha dimostrato che dopo la Juve e la Nazionale non ha amalgamato grandi squadre e grandi risultati. Io credo che il più grande in assoluto, sia del passato che del presente, sia Carlo Ancelotti, che ha saputo vincere dappertutto, attraversare società e presidenti diversissimi tra loro, ed è un maestro per tutti. Il suo migliore allievo credo sarà proprio Allegri, perché ha dimostrato di vincere al Milan e ha dimostrato di vincere alla Juve. Sì. La prossima dovrà essere una squadra europea. Perché la Juve non lo è. Grazie. La Juve non, Lucio. Sì, no, è italiana, è italiana, di dimensioni europee, ma italiana. Una cosa è andare ad allenare. Lei dice allenare, cioè gli serve la laurea all'estero. Perché è un modo di ragionare come azienda diverso. Carlo Ancelotti ha dimostrato di saper allenare, tenere il gruppo, vincere in una società granitica come la Juve, in una società in cui la tracotanza del presidente in Milan era a volte fastidiosa per un allenatore e un ex giocatore grande come lui. È andato in Spagna, è andato in Inghilterra, ora la prova è la Germania. Ma Ancelotti vincerà anche in Germania, perché nessuno sa gestire il gruppo dei giocatori come lui. Lei sfonda una porta aperta con me, con Carlo Ancelotti. È inutile stare a dire che è uno degli allenatori più bravi del mondo. possiamo anche aggiungere che è sempre stato in Italia o all'estero in grandissimi club. Io non credo che quest'anno sarà in grado, nemmeno impegnandosi nel peggior modo possibile, non credo sarà in grado di perdere il campionato tedesco, perdere la Bundesliga, perché il Bayern è un gigante in mezzo ai bambini in quel campionato. È inutile anche discutere le caratteristiche di Ancelotti da ogni punto di vista. Tra l'altro è uno degli allenatori in assoluto più amati da tutti i giocatori che ha avuto, e dunque siamo d'accordo. Adesso Conte è anche lui all'esame di inglese, a prendere la laurea all'estero. Su Lippi, insomma, mi pare che Lippi le ha detto, al di là di Juventus e Nazionale, non ha fatto, mi sembra che con Juventus e Nazionale qualcosina abbia pure combinato. Poi ci sono avventure che non gli sono andate bene, come facile ricordare quella con l'Inter, ma questo succede a tutti. Anche Ancelotti alla Juventus ha avuto le sue difficoltà. Signore che sto vedendo sui teleschermi parlare in immagine di ieri sera, Antonio Conte ha pure avuto degli alti e bassi, delle difficoltà. Ricordiamo ad esempio la parentesi breve all'Atalanta. Questo capita nella vita di un allenatore. Vito, buongiorno, provincia di Pisa. Ciao carissimo, buongiorno. Premetti che sono interista da 50 anni. Bene. All'infuori del trepete di Mourinho, mi dite il motivo che chi arriva all'Inter, i giocatori, di allenatori, sia ora che precedentemente alla triplete di Mourinho, diventano dei brocchi, vanno via dall'Inter e diventano dei campioni, diventano dei bravi allenatori, diventano dei bravi dirigenti. Qual è il male di questa Inter? Anni e anni e anni che non si capisce il male di questa Inter. Non riesco a spiegartelo, ma se ti sente Ibrahimovic mi sa che ti viene a cercare, perché quando Ibrahimovic arrivò all'Inter, non dirmi che diventò un brocco. Insomma, questa la parentesi dell'Inter è lì da leggere da quando, dal 2006, quindi da quello che è successo quell'estate, alla ricostruzione, al primo Mancini come allenatore, a Mourinho. La verità è che questa squadra ormai da diverse stagioni, cioè da quella del triplete, non è più all'altezza di quelle che l'hanno preceduta. Questa non era una squadra in grado di vincere lo scudetto l'anno scorso, non è una squadra in grado di vincere lo scudetto quest'anno. Mancini o De Boer o chi volete voi, nessuno sarebbe in grado di trasformare questa Inter in una squadra da scudetto. Certamente l'Inter attuale è una squadra che può competere con il Napoli e la Roma. Secondo me questa squadra, per così com'è costruita, strutturata per come è stata rinnovata in parte dal mercato, è una squadra che è in condizione di competere con il Napoli e con la Roma. Gianni, buongiorno. Eccolo. Ciao. Carlo, un piacere mio. Un po' di motociclismo. Sì, di cui tra poco torneremo a parlare, già te lo dico. bene, mi fa piacere. Allora, due cose. Sono felicissimo per le Ducati, era ora, bravissimi, complimenti a tutti. Non avevano bisogno di Lorenzo, assolutamente, l'anno prossimo andava bene. Uno come Lorenzo io non rinuncerei, Se vuoi. Sarà perché a livello mio personale è una persona che non mi piace, perciò non piace quasi a nessuno, forse neanche ai suoi parenti stretti, questo non vuol dire che non sia un gigantesco pilota. No, ma per carità, fuori classe, però vabbè, dopo quello che ha combinato l'anno scorso col suo compagno di merende, Marquez, credo che piaccia ancora meno di prima, insomma, tanta gente. Volevo solo dire una cosa, lanciare una piccolissima provocazione per le Ducati. L'anno prossimo iniziano le KTM. Sì. Le KTM hanno il telaio a traliccio. Sì. È vero che hanno ingaggiato due mediocri piloti, perciò non credo che possano fare grandi risultati, servirà per fare il primo anno di rodaggio. Però c'è da dire che KTM è capace di fare le moto, e come. Uh-huh. E mi dispiacerebbe molto che riuscisse a fare risultati con un telaio che la Ducati ha abbandonato. Solo questo. Allora, facciamo così. Approfondiamo subito dopo il traffico questo discorso con la nostra voce delle moto, Roberto Ungaro, che abbiamo riconvocato anche oggi, e con Paolo Ciabatti, che è il direttore sportivo della Ducati. Mi sembra quello annunciato da Gianni, dall'ascoltatore, un tema interessante con cui introdurre la discussione che sta per arrivare. I know only this verb: work, work and work. Tutti convocati. Tutti convocati. La Ducati c'entra una doppietta con due italiani, due Andrea. Giannone c'è davanti ad Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo e a Valentino Rossi in quarta posizione. Allora, io ho voluto The Voice Roberto Ungaro al mio fianco, almeno la sua voce, per parlare con Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati. Qui, Roberto, possiamo fare anche in coro i complimenti, tanto per cominciare. Ciao Carlo, grazie, un saluto a tutti. Sì, grazie alla Ducati da motociclisti italiani, da appassionati. Non abbiamo le Olimpiadi, ma proprio le Olimpiadi di questo momento aiutano a far capire questo risultato, che è una medaglia d'oro incredibile. Ce n'è bisogno in questo mondo di globalizzazione dove i giapponesi è dura sconfiggerli, e riuscirci con un pilota italiano, per una volta non è Valentino a portare il giro del mondo, il nostro nome. Questo bisogna esserne felici tutti, a prescindere che sei un ducatista, un yamahista o un hondista, e quindi questo è un risultato per noi, per noi italiani, assolutamente. Paolo Ciabatti, ieri Ungaro diceva che avete costruito, che Dellini ha progettato quasi una moto giapponese. Sei d'accordo o lo picchi? Innanzitutto, ciao Carlo, ciao Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma direi di no, direi che la nostra moto ha subito delle evoluzioni da quando Ducati ha esordito la MotoGP nel 2003. Prima sentivo l'ascoltatore, in realtà il concetto di Ducati all'esordio era che il motore era portante, al di là del telaio a traliccio, che era un telaio molto piccolo, e questa struttura è stata mantenuta, questo concetto è stato mantenuto poi passando con un piccolo telaio in carbonio ai già ai tempi di Casey Stoner. Quindi l'idea di passare poi a un telaio perimetrale in alluminio, e questa è stata un passaggio durante l'epoca di Valentino, e poi Ducati ha deciso di continuare a sviluppare un telaio un po' più tradizionale per la moto nuova, compresa la GP15, che è la prima vera creatura di Gigi Dallina. Roby, vuoi replicare? Paolo. Ciao Paolo. Sì, ma quando io dico giapponesizzato è in senso positivo, perché sappiamo tutti cosa fanno i giapponesi. Infatti quando la Ducati poi ha avuto il telaio in alluminio, e poi una scelta che tutte le moto giapponesi hanno. È una scelta difficile perché ha abbandonato un brand del proprio marchio, il telaio traliccio, era interessante quello che diceva l'ascoltatore di prima. Ma quando si vuole fare risultato, l'obiettivo è quello, è giusto lasciare questi marchi di fabbrica per conseguire il risultato. Quindi io sono assolutamente d'accordo. E ha avuto coraggio la Ducati a fare questa scelta. E il telaio in alluminio non è facile da trovare la quadra, perché il telaio traliccio è più facile per trovare la flessibilità, più o meno, è molto più facile da gestire, da realizzare un telaio in traliccio. Poi ci sono dei limiti. Paolo, io mi unisco ancora ai complimenti che saranno arrivati da tutti, ma sono quasi, diciamo, retorici. Però ti chiedo una cosa, è vero che questa pista era molto favorita da Ducati, ma adesso finalmente la vedremo così costantemente? Cioè, io non voglio sperare che sia un fuoco di paglia. Paolo, da qui alla fine del campionato sarà sempre a giocarsela sul podio? Ma sai, in realtà se guardi un po' come sono andate le gare del campionato fino a quella di domenica, direi che quasi sempre siamo stati in condizione di giocarcela per il podio, meno se vuoi le tre gare spagnole, Jerez e Barcellona, dove la combinazione di un asfalto con pochissimo grip e gli pneumatici che aveva portato in quel periodo la Michelin ci hanno messo particolarmente in crisi. Però ti dico, per noi la vittoria di domenica è la doppietta, tra l'altro è stata una grandissima gioia, ma anche, se vuoi, la consapevolezza di aver rotto questo incantesimo che per cui ci siamo andati, noi pensiamo di essere stati in condizione già quest'anno in due o tre gare di poter puntare alla vittoria, poi le cose sono andate come sono andate e non ce l'abbiamo fatta. Quindi aver interrotto questo digiuno che durava da 6 anni è stato anche così un grosso sospiro di sollievo per tutta la Ducati Costa. Sai cosa ha detto ieri Ungaro anche? Paolo, sai cosa ha detto? Dimmi. Sai chi era la persona più felice su quel podio? Jorge Lorenzo, che era lì dietro e ha detto ammazza che moto che mi stanno facendo. Esatto. Paolo, tornando all'argomento, quando io dico giapponesizzata ma in senso positivo, io sono quasi certo che non rivedremo la fotocopia dell'epoca di Valentino quando prese la Ducati, ma Lorenzo quando salirà sulla Ducati, siccome è un'altra Ducati e non quella che guidava Valentino quasi senza telaio, ecco perché secondo me l'apprendistato sarà più facile, non facilissimo, ma sarà più veloce. Cioè Lorenzo non farà quello che ha fatto, non avrà l'approccio che ha avuto Valentino con la Ducati, che è stato disastroso, perché oggi è un'altra moto, è molto più competitiva, è molto più guidabile. Ecco perché dico giapponesizzata, ripeto, in senso positivo. Paolo, sei d'accordo? Eh sì, sono assolutamente d'accordo, perché sono cambiate tante cose da quando Valentino salì sulla moto, che riusciva a vincere delle gare con Casistone, ma era una moto molto particolare. E direi che sono stati molto pochi i piloti che sono riusciti ad andare forte con la Desmo 16 GP di quegli anni. La nostra moto oggi è una moto, se vuoi, da un certo punto di vista un po' più convenzionale, passiamo il termine. Poi in realtà di convenzionale nella nostra moto c'è pochino, se guardi anche lo sviluppo che continuiamo a fare sulle alette, fino a quando l'ultima gara del campionato 2016 metterà fine purtroppo a questa importante, secondo me interessante, così sviluppo tecnologico. Però voglio dire, è una moto su cui diversi piloti hanno dimostrato di poter essere competitivi, non solo Iannone Dovizioso, ma anche Petrucci e Redding, che guidano la moto l'anno scorso, stanno facendo comunque delle gare. Quindi direi che è una moto che più piloti possono guidare e portare al limite. Certo. Paolo, sì. No, vai Roberto. Vai. Paolo, col senno di poi, ultima cosa che magari non è facile. Ti dispiace un po' per Iannone farlo andare via? Magari provare una terza moto, so che è difficilissimo, però alla luce di questo risultato, Paolo. Guarda, in realtà il dispiacere di aver dovuto fare una scelta c'era all'inizio, lo abbiamo detto, c'è ancora adesso. Non era possibile purtroppo fare tre moto perché ci sono anche dei problemi economici che poi i tifosi di solito tendono a sottovalutare, però insomma le corse costano tanti soldi, i piloti che vanno forte giustamente pretendono di essere pagati molto bene, quindi a un certo punto bisogna essere realisti e fare quella che si ritiene sia la scelta migliore, la scelta più equilibrata. Poi Andrea è cresciuto con noi, Iannone, ha esordito in MotoGP con noi nel 2013, ha passato insieme a noi dei momenti difficili, il 13 e 14, ha incominciato a togliersi delle soddisfazioni lo scorso anno e quest'anno è riuscito domenica a fare un'impresa molto molto importante, e quindi è ovvio che ci dispiace che l'anno prossimo sia il nostro avversario, però sai, bisogna a volte nella vita fare delle scelte e questa scelta è stata sicuramente difficile. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie Paolo, ragazzi. Grazie, siamo tutti un po' più rossi questa volta, non di Valentino. Grazie Paolo, grazie. Ciao Paolo, ciao a tutti. Roberto, ci sentiamo a stretto giro di posta, Non abbiamo tante vacanze tra una gara e l'altra. Non c'è tempo. Pronti, pronti per Brno. In vacanza si può andare solo a Brno. Ciao Robby. Ciao Carlo. Ciao Roberto Ungaro. Voice del Moto Mondiale per Radio 24, Pierpaolo da Rimini, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Il mio intervento è un intervento legato al calciomercato, in particolare alla squadra di cui sono tifoso, ovvero la Juventus. Le volevo chiedere, secondo lei, la cessione di Pogba, che a mio parere è stata più, diciamo, fortemente voluta dal procuratore più che dalla società, tra l'altro a cifre nettamente inferiori a quelle che si sentivano, i numeri che circolavano, perché sembrava che fosse una sessione molto più corposa. Oggi ha messo, secondo me, male non è stata, comunque. No, d'accordo con lei, però io sentivo cifre sopra i 100 milioni, in realtà il curatore, a quanto leggo sui giornali, ne ha ricevuta, aspettava una parte importante. Però questa cessione, secondo lei, non ha causato delle grandi difficoltà? Perché i nomi che sento circolare, Brozovic, Matuidi e compagni, mi sembrano giocatori che non facciano al caso della Juve e mi sembra che al centrocampo ci sia dell'emergenza. Beh, c'è dell'emergenza temporanea certamente. Non dimentichiamo che è arrivato Pjanic, che è stato comunque un grande colpo. Non dimentichiamo che Khedira, se riesce ad essere un po' più resistente dal punto di vista fisico, è comunque un giocatore importante. Partirà con ogni probabilità Pereira, ma non credo che la Juventus abbia di nuovo bisogno in quel ruolo. È rientrato Asamoah, è chiaro che starà fuori ancora per un po' Marchisio. Bisogna certamente allungare le rotazioni in quel centrocampo, e la Juventus lo farà inseguendo non un giocatore di secondo piano, non un giocatore di ripiego, ma sta provando a prendere giocatori di un certo peso, di una certa importanza e di una certa esperienza internazionale. Io credo che nel complesso dovessimo tirare una riga oggi sotto il mercato della Juventus, il bilancio sarebbe estremamente positivo. La partenza di Pogba, lei dice, è stata voluta non tanto dal club quanto da Mino Raiola. Credo sia stata voluta anche da Paul Pogba, che andrà a guadagnare grosso modo il triplo rispetto a quello che prendeva la Juventus, ed è uno stipendio cui non si può dire di no, ed è uno stipendio che la Juventus legittimamente non era in grado di garantire al giocatore. Dunque era praticamente inevitabile che finisse in questa maniera, senza grandi colpe da parte di nessuno. Antonio? Sì, buonasera. Buonasera, abbiamo 30 secondi, ce la fa? Sì, volevo riallacciarmi sui problemi degli allenatori, dei più grandi. Secondo me realmente Ancelotti e non dimenticare di Fabio Capello. Poi il resto sono tutti allenatori che hanno avuto il club a loro favore e quindi sono stati dei buoni allenatori. Adesso vedremo il banco di prova sia di Conte e di tanti altri che hanno cambiato nazionalità. Che Ancelotti sia un top allenatore a livello mondiale, poi mettetelo sul podio dove volete, che Fabio Capello sia stato un grande allenatore, anche se gli ultimi anni della sua carriera non sono stati vissuti tra Inghilterra e Russia nella maniera più emozionante possibile, che gli altri siano delle mezze cartucce, direi di no, perché Guardiola non è una mezza cartuccia, Mourinho non lo è pure, Conte non lo è certamente. Insomma, di allenatori top non ce ne sono mille, ma quei 7-8 certamente sì, in cui è incluso ovviamente Carlo Ancelotti e quelli che abbiamo nominato. Ci fermiamo, ma torniamo. Io ringrazio intanto Alvise Falzone e Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20, perché siete tutti convocati alle Olimpiadi, come ogni sera. Sono andato a cercare notizie, ma oggi non c'è niente. Ci vediamo stasera.